siamo felicissimi di poter fare lo stesso Cielo Corto Film Festival 2020 nelle stesse giornate che avevamo previsto per la versione dal vivo, diciamo. Abbiamo ritenuto che fosse importante fare così perché siamo un festival a seconda edizione. Noi rimaniamo fissi sull'ultimo weekend di novembre, come abbiamo fatto lo scorso anno. Stessa cosa, come sapete, per l'attività di Kinodromo, quindi tutta l'attività di stazione è stata spostata online e qualcosa vedremo se riusciremo a farlo in un secondo momento. Le due sezioni del festival che sono saltate, vedremo se riusciremo a farle dal vivo, che sono il contest di creazione di un corto in 72 ore, che per ovvi motivi di sicurezza non poteva essere svolto, e la sonorizzazione live, il cui fulcro è appunto una presenza dal vivo. Quindi queste due sezioni del festival verranno rimandate a momenti più propizi, e nel mentre vi diciamo quello che invece ci sarà, che è tutto il resto, e che speriamo possa piacervi e, come diceva Francesco, possa comunque contribuire a creare un'atmosfera di festa e di condivisione intorno ai titoli che noi abbiamo scelto. Il 25 entriamo nel vivo del festival e entriamo nel vivo con una presentazione alle 6 di quello che è il primo slot di cortometraggi e tutta la prima giornata, tra virgolette, anche se in realtà è una serata. Abbiamo previsto due diverse modalità di fruizione e chi vuole seguire la nostra scaletta e gli orari che noi avevamo pensato per il festival in versione live può trovare tutto il programma e troverà tutto il programma con gli orari precisi sulla piattaforma e sui nostri social. Chi invece vuole fruire indipendentemente da quelli che sono gli orari che abbiamo dettato noi, in ogni caso troverà il programma di ogni giorno disponibile sulla piattaforma dalle 18 alle 18 del giorno dopo, troverà i talk sempre fruibili sui nostri canali social e quindi potrà scegliere come gestire il proprio tempo e i propri percorsi di visione. Per chi durante la settimana fosse impegnato, la domenica 29 per tutto il giorno abbiamo di nuovo disponibili tutti i titoli, in modo che chi se li fosse persi li può recuperare, e lunedì 30 solo i vincitori. E per accedere al festival serve andare sulla piattaforma distribuzione dal basso, il nostro partner per tutta l'attività online di Kinodromo, che ci creerà appunto una sorta di portale apposta per le nostre esigenze, per i nostri contenuti, dove sarà racchiuso tutto il programma del festival. Come dicevo, quindi inauguriamo il festival mercoledì 25 alle 18 con il primo talk, che sarà un talk dedicato alle registe donne e che racchiuderà due delle sezioni del festival, Cielo Corto e Internazionale. Le sezioni del festival sono appunto Cielo Corto, che è la sezione dedicata ai registi under 30 senza una distribuzione e che ha appunto un premio di distribuzione offerto dai nostri partner Sayonara Film e Elephant Distribution, quindi un contratto della durata di un anno con cui questa organizzazione si impegna a distribuire almeno il cortometraggio in tutti gli altri festival. La sezione internazionale invece per tutti, senza limiti di età, senza limiti di produzione o distribuzione, e ha un premio in denaro. Poi abbiamo la sezione animazione, che è la grande novità di quest'anno, che ha anch'esso un premio in denaro e una giuria tutta particolare. E poi abbiamo, come sempre, la sezione off Cielo Porno. Quindi il primo giorno, come tutti gli altri giorni, presentiamo slot appartenenti a tre sezioni, e il primo giorno abbiamo uno slot Cielo Corto, uno slot internazionale e la serata dedicata totalmente alla selezione operata dalle ragazze di Inset Porno.